Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Da Ronaldo, palo! L'errore di CR7. Che strano che ha calciato di rasoterra. Brutto questo intervento, bruttissimo di Rebic, che vediamo è un rosso. Po' ha in mano il giallo, forzato, sì. Poi diventa rosso. Battuta di Eriksen sul primo palo, il pallone sorprende Ospina, arriva il vantaggio dell'Inter, ha segnato Eriksen, 1-0. Parte subito il contropiede del Napoli con il pallone in profondità per lo scatto di Insigne, che va via Eriksen, prova ad inseguirlo ancora Insigne al limite dell'area, entra Insigne, pallone centrale, Mertens, e arriva il pareggio del Napoli con il gol numero 122 in maglia azzurra di Dries Mertens, recordman nella storia azzurra, staccato Hamsik. Basta così per Orsato, 0-0, Juventus prima finalista di Coppa Italia. 1-1, il Napoli è in finale di Coppa Italia per la decima volta nella sua storia. Il Milan ha fatto sicuramente una buonissima partita pure in 10 contro 11, però abbiamo iniziato con un pareggio, è vero, ma l'obiettivo era quello di andare a Roma e credo guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Bene in campo loro, però noi abbiamo fatto la nostra parte e anche se abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto la squadra e abbiamo cercato e voluto a tutti i costi la finale. Ci abbiamo messo dentro tutte le emozioni di queste prime due notti di calcio ritrovato dopo lo stop per la pandemia. Ci mancava, non mancava soltanto noi, se è vero che poco meno di 16 milioni di persone hanno tra venerdì e ieri notte guardato le due semifinali Juventus-Milan e Napoli-Inter, che ci regalano una finale bellissima. Mercoledì sera l'appuntamento alle ore 21, Stadio Olimpico di Roma, Juventus contro Napoli, che ha mille storie dentro e da domani ne parliamo. Ad esempio la prima che viene in mente è Sarri contro il Napoli. Sarri che cerca il primo trofeo italiano contro il Napoli di Gattuso, che a sua volta cerca il primo trofeo italiano. Bellissimo, ne parliamo da domani. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Voglio sapere le vostre di emozioni in queste prime due notti di calcio ritrovato. Io lo dico subito, per me è stato calcio vero. E adesso apriamo il dibattito con i nostri interlocutori. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Saluto Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Un saluto anche per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao. E fatemi salutare Alberto Zaccheroni, ciao mister. Ciao a tutti. Calcio vero o no, Alberto? Ma sì, guarda, probabilmente l'assenza del pubblico condiziona la mia opinione. E guardando la partita di sera, non so se, non ho guardato i numeri, ma non so se è una sensazione mia. Io raramente ho visto una partita, ricordo una partita con così pochi falli. Adesso ti do il numero. Non è stata certamente una partita cattiva, determinata, no? In realtà 13 falli il Napoli, 20 l'Inter, quindi diciamo 33 sui 90 minuti, sì. Siamo più o meno nella media di quello che si vede nel calcio di oggi. La sensazione che ho avuto io, non guardando i numeri, era che fosse, mi dava la sensazione di una partita di precampionato. Io ricordavo le partite del Berlusconi, per dire, no? Trofeo Berlusconi, ecco, la sensazione era quella, però devo dire che ho visto un Inter più avanti del Napoli, che è una partita che il risultato è stato determinato da un gol preso che raramente le squadre di Conte consentono. Sì, no? Uno di quelli fatti apposta per far incazzare credo qualsiasi allenatore. Calcio vero o no? Carlo? Ma calcio vero a me è sembrato di sì, soprattutto la partita di ieri sera. Poi il mister adesso faceva riferimento penso all'intensità, è un po' precampionato perché l'interruzione è stata lunghissima e quindi era quasi normale trovare delle squadre che cercavano un po' se stesse. Io non so, Giovanni, in questi mesi abbiamo parlato tanto, sarà stata la voglia, sarò stato forse suggestionato, ma a me soprattutto la partita di ieri sera è piaciuta molto. Sì, poi vi do anche qualche numero su altri dati che solitamente vengono analizzati per capire se si è trattata di una partita a passo d'allenamento o no. Pier, il tuo parere? Ma molto simile a quello che mi aspettavo, sinceramente. Cioè, l'assenza del pubblico è un dolore ed è anche un condizionamento. L'abbiamo visto anche in Bundesliga. La sensazione che ci sia un po' di aggressività in meno ce l'ho avuta in questo. Sì, ce l'ho avuta. Però invece a livello di velocità, così do questi numeri. No, a livello di velocità di tre squadre su quattro. Noi, i dati del Milan contano poco perché il Milan è rimasto al quarto d'ora in 10 uomini e quindi si fa fatica ad avere un raffronto statistico. Ma tutte le altre tre squadre, Napoli e Inter ieri sera in maniera abbastanza sostanziale, ma anche la Juventus di venerdì, hanno corso rispetto alla gara d'andata di più, addirittura il Napoli 118 km per intenderci, e con una velocità media superiore rispetto a febbraio. Non ho visto uno spettacolo così lontano dagli standard. È chiaro che insomma era un'incognita, anche perché rispetto anche a una prima giornata di campionato non c'erano stati nemmeno i test amichevoli, quindi era veramente un inedito assoluto, oltretutto in partite importantissime, quindi anche con l'elemento legato al fatto che ogni errore poteva costar caro. Lo spettacolo in campo non mi è affatto dispiaciuto, devo dire, soprattutto ieri sera. La prima partita è stata condizionata dalla situazione dell'11 contro 10 della squadra che era virtualmente qualificata con l'uomo in più, quindi insomma secondo me sarà meno bella. Ieri è stata una partita intensa, l'Inter ci ha provato fino all'ultimo minuto, sì, anche con delle emozioni messe dentro, a livello di occasioni, insomma a livello di ribaltamenti. Assolutamente. Poi è ovvio che l'assenza del pubblico è un dettaglio. Gli ascolti televisivi, non so se li valuteremo, sono in linea, non sono clamorosamente positivi. No, non dai, è un diciamo boom. La verità, qualcosa meno di quello che avevamo pronosticato venerdì, che avevamo fatto il giochino. No, io non avevo pronosticato Alberto nulla, Di Polina ci aveva detto 11 vabbè. Milioni secondo me fanno il botto. In realtà di fronte a questo Di Polina mi inchino, ma c'è un dato, se parliamo al volo degli ascolti televisivi, c'è un dato che mi ha colpito molto in Juve Milan, quello di Napoli-Inter, onestamente so solo il dato complessivo, cioè il calo tra il primo e il secondo tempo. Ed è quello che abbiamo ripetuto spessissimo in queste settimane, che fa sì che nessun dirigente televisivo io abbia mai incontrato in nessuna televisione, Stream, Telepiù, Sky o Mediaset, abbia mai detto che voleva la partita a porte chiuse. Certo, la partita a porte chiuse probabilmente ascolto. Il pubblico, diciamo quello non così addentro alla partita, non così interessato alla partita, ma più coinvolto, un po' più tiepido, no? Che guarda la partita un po' più come uno spettacolo, ma gliene rischi frega di meno, perderlo. Probabilmente quello rischi di perderlo. Infatti Juve Milan, fra il primo e il secondo tempo, ha perso 1 milione di telespettatori. Quindi, però è un dato che conferma il fatto che il calcio c'è. I tifosi non è che in questo momento non sono più interessati al calcio, sono interessati, purtroppo non possono andare allo stadio. Certo, no, ma anche quelli che per due mesi hanno detto che non sarebbero più stati interessati, non avrebbero più visto. Allora, abbiamo il traffico. Io poi riparto da Alberto Zaccheroni e proviamo a capire chi sta meglio, ad esempio, tra Napoli e Juventus, perché fra tre giorni è già ora della finale di Coppa Italia. 800 24 00 24, aspetto le vostre chiamate al numero verde. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, c'è chi ci scrive che sembravano scapoli contrammogliati, chi si chiede se il cambio con le 5 sostituzioni premia la squadra più lunga come rosa o quella che l'allenatore è capace di leggere meglio le partite. Adesso magari lo chiediamo ad Alberto Zaccheroni. Alberto, però vorrei partire, dopo averle viste in rapida sequenza, da te su una valutazione su Napoli e Juventus, che poi mercoledì si contendono la Coppa Italia. Chi sta meglio? Io vedo favorita la Juve. Anche perché ho negli occhi la partita di ieri sera. Adesso il risultato ha dato ragione al Napoli, però onestamente io non ho visto la reazione e una determinazione di una squadra che era sotto e che doveva cercare di in pratica era fuori, no? Perché a quel punto, alla fine del primo tempo, passava l'Inter, no? E mi aspettavo una condizione migliore, per quello che prima ho dato questo giudizio sulla condizione del precampionato. Se andiamo a guardare nel secondo tempo, il Napoli, ma poco anche nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo, in fase offensiva, ha fatto decisamente poco. Poi è arrivato questo gol e stranamente l'Inter si è fatto trovare con Eriksen su Insigne e Young in mezzo, con due uomini che nessuno dei due è un difensore puro, ed è andata come è andata. A me viene da pensare alla Juve per l'organico che ha a disposizione, ma non giocheremo tra 7 giorni, giocheremo tra pochi giorni, giocheranno tra pochi giorni. E questo giorni, pesano. Questo pesa. Però Torino trasmette un po' quello che è stata la sua caratteristica principale di giocatore, questa grande determinazione, questo non mollare mai. Quindi caricherà ben bene la propria squadra, però i favori pronostico da parte mia vanno alla Juventus. Carlo, Juve anche mister, per te? Sì, no, ero curioso di chiedere al mister una cosa. Innanzitutto si può notare come i due gol ieri sera sono venuti da due errori clamorosi, anche perché in Serie A non capita spesso di vedere un gol sul rinvio del portiere, per quanto neanche su calcio d'angolo, bravissimo, due errori veramente da matita blu. Io credo, mister, che la Juventus sia quello su calcio d'angolo, sì, è passata, no? È passata, ma l'altra è proprio da disposizione, esatto, perché ripeto, Eriksen a fare il terzino su Insigne e Young in mezzo, due uomini soli, il terzo è arrivato in ritardo ed era Brozovic, insomma non c'è neanche un difensore. È vero che l'Inter cercava magari di chiudere la pratica sfruttando i centimetri di cui dispone, no? Però l'Inter si stava qualificando con quel risultato. Ha maggior ragione prendi un gol in contropiede sul rinvio del portiere. No, volevo dire, la Juventus mi sembra abbastanza ingiudicabile data la pochezza clamorosa del Milan. Chiedo anche a Pier di Ronaldo, perché c'è chi ci dice la domanda è se Ronaldo ha solo un po' di ruggine, mercoledì sarà in forma oppure ci vorranno 2 o 3 settimane. No, ma infatti io non ho nessuna certezza sulla finale, anche perché Juve e Napoli paradossalmente sono le due squadre che mi sono piaciute di meno, sono exit poll, sono stati 2 pareggi, le differenze sono minime, quindi è assolutamente, può essere fuorviante, però i piccoli segnali, l'Inter delle 4 è quella che mi è piaciuta di più. L'Inter ha giocato secondo me 90 minuti da squadra. Sono d'accordo anch'io. La squadra che mi sembra ha giocato la partita con lo spirito. Poi ovviamente Ospina ha fatto una partita. Anche se la storia del calcio è lastricata, di allenatori che si compiacciono per la prestazione dopo essere andati fuori e alla fine non hanno comunque fatto un buon affare. C'era un'andata che ha pesato, perché vincere 1-0 fuori casa comunque non è un dettaglio. Quindi poi io adesso non faccio un ragionamento sui 180 minuti, faccio un ragionamento su quello che abbiamo visto in questi 2 giorni. Juve-Milan, io mi aspettavo di vedere onestamente un Milan in difficoltà, anche se poi il Milan, come detto, a parte quella finale di Coppa Italia, in questi anni di difficoltà comunque contro la Juve ha sempre fatto prestazione, o quasi. E l'ha fatta anche l'altro giorno con quello che poteva fare, che non è molto, però con enorme dignità in 10 contro 11. La Juve non mi è piaciuta l'altro giorno, e non mi è piaciuto molto nemmeno il Napoli. Il Napoli ci ha messo cuore, è riuscito a tenere questo risultato, Spina ha fatto 4-5 interventi decisivi, cioè paradossalmente mi sono piaciute di più Inter e Milan, però c'era un'andata e ci sono stati ovviamente i piccoli dettagli, le piccole differenze, per cui la finale sarà Juve-Napoli ed è difficilmente pronosticabile in questo momento, anche perché le incognite sono mille e sicuramente anche il fatto della mancanza del pubblico pesa, non è un dettaglio, l'aggressività è diversa, ci sono secondo me i giocatori stanno prendendo confidenza con questa situazione, con questa situazione nuova. Allora, abbiamo, e saluto subito Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, ciao Pier. Adesso ti chiedo. Era lì, è stato il primo inquadrato. Gli ho mandato anche un messaggino subito dietro ad Alberto Di Medio. Qui mi ha preso in giro. Con mascherina d'ordinanza, no? No, forse vagamente calata, perché c'era la distanza. C'era la distanza, che è la stessa che ha tenuto Eriksen da Insigne in occasione del contropiede. Fatemi fare l'ultima domanda ad Alberto Zaccheroni, proprio cercando di trarre qualcosa e proiettando il tutto poi su quello che capita da settimana prossima. Allora, abbiamo detto che quella che è uscita meglio a livello di prestazione è l'Inter, per quello che possa contare in questo momento, essendo stata eliminata. Non abbiamo ancora visto la Lazio. Io volevo chiedere ad Alberto Zaccheroni se secondo te l'Inter che hai visto ha in canna lo strappo nelle prime 5-6 partite. Ricordo, Inter-Sampdoria, Inter-Sassuolo, Parma-Inter, Inter-Brescia, Inter-Bologna, Verona-Inter, Inter-Torino e Spal-Inter. L'Inter è un organico importante, può strappare. Cioè, ti sembra preparata? Ti sembra che Conte abbia in testa l'idea che magari può provare a rientrare in quella lotta a scudetto dove a marzo, l'8 marzo, era oggettivamente fuori? Guarda, all'Inter prima è mancato Eriksen. L'Eriksen che abbiamo visto ieri sera è un Eriksen interessante, perché era il centro del progetto, ha fatto la rifinitura, è stato l'uomo più pericoloso in fase di finalizzazione, quello che ha cercato, al di là del gol, che gol non gol, perché di meriti ne do pochi quel gol, no? Ovviamente, però ha cercato anche la conclusione, non solamente l'assist, le punizioni, è calciato molto bene anche quella, quindi se rivediamo questo Eriksen, a gamba, gli esterni a cambi, anche se ieri onestamente non ho capito l'uscita di Candreva, perché Candreva a me era piaciuto moltissimo nel primo tempo, ma veramente molto. Credo l'avesse visto un po' stanco, tant'è vero che è appena entrato Moses un pochino, diciamo, è tornato a far danni da quella parte del Napoli, poi però non è bastato. Allora, fatemi salutare Alberto Zaccheroni, grazie mister, alla prossima. Ciao a tutti. Alberto. Antonio Giordano, io ritengo la finale del Napoli, questa finale, è una specie di miracolo, non per quello che si è visto ieri, per quanto Spina insomma sia stato l'architrave su cui si è retto un po' tutto, ma considerato tutta questa stagione, da dove si è partiti e dove a un certo punto ci si è trovati, un miracolo firmato Gattuso. Sì, è assolutamente un miracolo, perché se ripensiamo al 5 novembre o all'11, diciamo che era una stagione che si è già finita in maniera anche ingloriosa, attraverso una burrasca interna in testina addirittura, che aveva minato non soltanto le certezze ma anche le fondamenta di quello che in genere pomposamente siamo abituati a definire progetto, ma che progetto era. E invece è stato bravo Gattuso, a parte nella fase iniziale del suo avvento, quella nella quale ha avuto bisogno di studiare, di rimettere a posto i cocci, di legarli, di entrare nella testa, devo dire anche nel cuore della squadra, e di riuscire a fare ciò che da Gattuso, onestamente, da Gattuso giocatore, ma anche dal Gattuso che da allenatore corre su e giù intorno alla panchina, non ci saremmo aspettati. Cioè, il collante dal punto di vista caratteriale, attraverso il buonsenso, il ragionamento, devo dire anche un certo carisma che si avverte. E questo credo stia significando altro nella vita da allenatore di Gattuso, cioè il passaggio dalla prima fase, cioè quella formativa nella quale ragioni anche tanto e purtroppo a volte da giocatore, a quella invece in cui ti spogli dei tuoi panni da calciatore, delle scarpette e riesci anche a diventare uno psicologo. È un gestore. Vi segnalo, e non so che effetto vi faccia, che il Napoli arriva a questa finale contro la Juventus dopo aver eliminato Lazio e Inter, cioè stiamo parlando di due delle tre che si sono giocate allo scudetto, la terza la Juve, vediamo come va a finire mercoledì sera. Non so Carlo e Pier, insomma Pier, partendo da te, che impressione dà questo del percorso di Gattuso? Assolutamente, un pochino di cose da dire, proverò ad essere breve. Allora, la prima è che sicuramente sul piano del campionato la stagione del Napoli era rovinata dall'inizio di novembre, ma sul resto ovviamente c'erano i margini per la crescita. Sono d'accordissimo su Gattuso, lui ci ha raccontato nel post partita di DAZN di Napoli-Torino, me lo ricordo benissimo questo passaggio a fine febbraio, di essere cambiato molto anche rispetto all'inizio della sua esperienza al Napoli, di aver fatto delle scelte che cominciavano a essere un pochino più meditate, un po' più pensate, un po' meno impulsive, insomma un po' più da grande allenatore, quale sta diventando sempre di più, che certe volte insomma sceglie magari in maniera un po' meno istintiva, un po' più ragionata, con qualche compromesso, ma nel senso più sano del termine rispetto a quella che sarebbe la sua ideologia calcistica di partenza. E poi le due eliminazioni di Lazio e Inter sono estremamente prestigiose, estremamente sofferte. Anche la partita con la Lazio era stata estremamente sofferta, molto bella, ma insomma con tantissime occasioni anche per la Lazio. Però nel calcio non c'è mai nulla di casuale, e quindi sono molto curioso di andare a vedere come andrà a finire. Oltretutto questa situazione secondo me allarga la sfera delle possibili variabili, nel senso che appunto è tutto diverso. Sì, in tempo di normalità probabilmente ci sarebbe una favorita chiara, la Juventus. Così sì, magari un po' le carte si mischiano. Per me oggi è veramente 50-50. Io la Juve, ripeto, non l'ho vista bene l'altra sera, per quel poco, Carlo, che significa, che comunque ha portato a casa la qualificazione. Difficile giocare contro, ripeto, secondo me contro un Milan che faceva muro così. Però quanto al Napoli, io insomma, la cosa da sottolineare è la laurea probabilmente di Gattuso, no? Aveva fatto benissimo col Milan, quindi una serie di esami da voti altissimi, questa finale raggiunta, e Antonio ha raccontato perfettamente il clima della squadra, è davvero sua consacrazione come allenatore di livello. E poi è incredibile la stagione del Napoli, che dovesse vincere la Coppa Italia da un momento in cui tutto era perso e tutto era da buttare, si ritrova una stagione in cui campionato vediamo che succede, finale di Coppa Italia, e non dimentichiamo che c'è ancora una partitella a Barcellona. Vediamo come va a finire anche quella. Grazie ad Antonio Giordano, ciao Antonio, alla prossima. Grazie a tutti, ciao Carlo, ciao. Allora, ciao, ci dobbiamo fermare, poi apriamo la pagina dell'Inter, perché ci sono almeno due temi scottanti. Il primo, sentiamo Conte che fa un mini bilancio di questa stagione, e comunque quella di ieri sera è alla fine, seppure con un'ottima prestazione, un'eliminazione. E poi c'è il caso Lautaro Martinez, con la testa al mercato, al Barcellona, fantasma ieri sera, fantasma lo era stato l'8 marzo a Torino contro la Juventus, e di fatto poco presente nel gioco dell'Inter lo è da gennaio. Subito dopo l'intervallo la lotta continua! Tutti convocati. Convocati. La stagione attuale non sta a me valutarla, penso che ci sia stata una crescita importante sotto tutti i punti di vista da parte di tutta la rosa, di tutti i calciatori. Penso che il compito mio è quello di alzare il livello, migliorare i calciatori e portarli poi a un livello per cercare poi di essere competitivi per la vittoria. Le vittorie non si raggiungono dall'oggi al domani, soprattutto se non vinci da 9 anni. Io sono molto contento di lavorare con questi ragazzi, perché sono convinto che abbiamo intrapreso una strada giusta, è una strada che ci porterà a dare soddisfazione ai nostri tifosi, soprattutto una strada che renderà orgogliosi il tifoso dell'Inter. Allora, questo Conte ieri dopo la partita, non tutti i tifosi interisti si sono accontentati della prestazione. Saluto Michele Dalai, ciao Michele. Eccomi, ciao. Adesso ti chiedo se sei contento e ti accontenti della prestazione o guardi la parte vuota, mezzo vuota del bicchiere. Leggo qualche messaggio, è arrivato addirittura prima che andassimo in onda. Conte l'iper sopravvalutato, dia le dimissioni, non ha dato un gioco, il tutto è aggravato dalla difesa 3, basta Conte. Oppure, secondo voi, l'allenatore e i giocatori dell'Inter non dovrebbero chiedere scusa ai tifosi? Perché sempre a dire siamo sfortunati, eccetera, eccetera. Oppure ancora, Marotta deve risolvere il caso Lautaro, punto esclamativo. Allora, qual è il tuo mood oggi, Michele? Posso girare una domanda a te? Secondo te ne siamo usciti migliori da tutto quello che abbiamo passato? Ma non ci illudevamo nemmeno, No, l'importante è che ne siamo usciti, si spera. Esatto, 90 minuti di calcio giocato in queste condizioni, anche emotivamente complesse per tutti i giocatori, io trovo che sia tutto molto affrettato. Guarda, appartengo a quella categoria di pensiero che avrebbe forse aspettato un mondo diverso, ma è impossibile. In realtà abbiamo capito che se non si rinizia a vivere, a giocare, a fare le cose che ti portano un po' lontano dal dolore, diventa tutto difficile. Quindi anche questa ripartenza, io pensavo non avrei guardato la partita, pensavo non mi sarebbe fregato nulla, invece mi sono arrabbiato, emozionato in qualche momento anche. Ho subito un po' di sconforto classico da questo tipo di partite. Credo che l'Inter ieri avrebbe potuto tranquillamente portarla a casa. Ha ragione Conte sul fatto che le squadre si costruiscono. non fosse che lui purtroppo arriva con le stimmate del vincente, purtroppo per lui, no? Quindi che la nevrosi, come si può notare ampiamente dopo una ripresa così difficile, diventa subito l'urgenza di quelli che ha letto. Sono messaggi molto chiari, no? Tutto è subito, proclama è già una vergogna, no? Io dice, porto a casa il fatto che effettivamente ieri l'Inter ha giocato contro una squadra che sembrava alla portata, sembrava un po' più fragile. Quindi bicchiere mezzo pieno. Sì, ma sembrava alla portata anche perché l'Inter ha fatto prestazione, ciao Michele, cioè a me sembra che l'Inter ieri abbia giocato bene, poi, tratti ha giocato molto bene. È chiaro che il dolore bene, per una, cioè, giochi le semifinali, oltretutto molto tirate, vanno in finale due e le altre due rosicano, come si dice a Roma, ed è normale che il tifoso dell'Inter sia deluso, però la prestazione di ieri è stata positiva, semmai è l'andata che ha complicato tanto le cose. A me ieri l'Inter è piaciuta, ripeto, delle quattro è quella che primissima exit poll, aspettiamo, però mi sembra che abbia dato sicuramente la sensazione migliore. E se guardo la classifica, manca l'exit poll della Lazio, manca l'exit poll della Lazio, mancano 12 giornate, 13 per l'Inter, l'Inter è a meno 9, se batte la Samp è a meno 6, insomma ragazzi, il calendario l'abbiamo detto prima. Io vorrei confortare il mio amico Michele Dalai, Giovanni, perché insomma sposo i messaggi che hai letto. Due sono irricevibili, mi sembrano sciocchezze, quello significativo è quello di Lautaro, relativo a Lautaro, ma credo poi ne parleremo. Però per confortare il mio amico Michele Dalai, io sposo il lodo Chiellini, che l'altro giorno in intervista che abbiamo più volte citato al Corriere dello Sport ha detto: non capisco perché escludano l'Inter dalla corsa scudetto. Non ha senso, soprattutto per le caratteristiche della squadra e di Conte. Un mini torneo in cui si brucia tutto in poche partite, insomma. No, ma dobbiamo dire la verità, la sera dell'8 marzo l'Inter era fuori dalla corsa scudetto, punto, appunto, anche se le giornate che mancavano erano le stesse. Poi dopo c'è stato il blocco per tre mesi e adesso quello che raccontiamo è ad esempio il calendario che abbiamo detto prima. La tendenza è una tendenza negativa, oltretutto l'abbiamo detto anche noi, quindi è inutile tirarci indietro. Alcune dichiarazioni più societarie che altro di questo periodo facevano pensare che l'Inter approcciasse questo ritorno in campo con meno voglia rispetto alle altre. Quello che abbiamo visto ieri sera assolutamente va in una direzione opposta. Diversa. Io l'Inter che ho visto ieri sera, per me è una squadra che ha il dovere di provarci, a vincere il campionato, ha il dovere di provarci, poi magari non ci riesce, certamente non è la favorita, in questo momento è la testa di serie numero 3. Però insomma, ieri ho visto una signora squadra, sì, che recupera che anche nella gamba, come diceva prima secondo Alberto Zaccheroni, per sparare la partenza. Ecco, Lautaro, chiedo a Michele Dalai se sta diventando o se è già diventato un problema. No, allora, la partita di ieri è giudicabile per tanti aspetti, come dicono Pierre e Carlo, come dicevamo prima, cioè ci sono delle cose molto confortanti, molto belle. L'Inter ha giocato una bella partita, Eriksen ha giocato una splendida partita, secondo me. Lautaro giochicchiava a marzo, io ho l'impressione che su un ragazzo della sua età, delle sirene così potenti, la quasi certezza di poter forzare la mano, tornare in campo a giugno in queste condizioni così difficili, surreali, ci vuole una maturità diversa. Probabilmente se Lautaro avesse 27-28 anni o fosse un trentenne nella stessa situazione avrebbe giocato in un altro modo. Io credo che lui sia oggettivamente un po' lontano anche di testa da questa cosa. Il che non significa che non sia uno splendido calciatore con dei colpi che in qualsiasi istante della partita possono essere risolutivi, però io ieri negli ultimi minuti con Sanchez in campo, però io non capisco con la elettricità. E ti chiedo un aiuto, questa rassegnazione dei tifosi dell'Inter, cioè c'è questo paradosso: l'Inter per il secondo anno di fila entra nella fase decisiva della stagione senza attaccante per questioni contrattuali, chiaramente non c'è un paragone che si può fare tra la vicenda Icardi e la vicenda Lautaro Martinez, e quindi non lo facciamo. Però insomma, tutto questo buonismo verso un giocatore che da fine gennaio ha di fatto staccato la testa perché sta trattando con un altro club, io faccio fatica a comprenderlo. Chiedo a Michele, da esponente della tifoseria dell'Inter. Ti garantisco, anzi, la tifoseria dell'Inter in queste cose è di una ferocia smodata. No, non è buonismo, è semplicemente che più realisti del re, si arriva a questo punto della stagione, anch'io credo che l'Inter sia ancora in corsa, e contando sulle risorse che abbiamo e ma se gioca senza Lautaro no, cioè se gioca in 10 e mezzo ragazzi, Lautaro ha sbagliato mezza partita ragazzi, allora guardate, guardate che a febbraio e fino all'8 marzo le ultime 5-6 sono state un pianto, eh. Posso tornare, guarda Giovanni, torno al punto principale, cioè parto da Antonio Conte, l'inizio di questa nostra chiacchiera, no? Viene dalle dichiarazioni di Conte. Io credo che qui la differenza in questo caso la faccia Conte. Io penso che Lautaro abbia giocato una partita difficile come tutti gli altri, peggio degli altri. Le prossime 2-3 partite sono quelle in cui si capisce in un range molto corto se effettivamente è ruggine o se è poca voglia. Nel caso 2, malauguratissimo per lui, ha un allenatore che credo che queste cose le tolleri molto male. E c'è l'immagine del calciatore che a quel punto mette sul piatto la sua professionalità. O meglio, dicendola volgarmente, sputtanarsi non è mai divertente. Quindi quando hai uno come Conte in panchina, come Mourinho, come Conte, come quelli che l'affrontano di petto la situazione, io fossi lui ci penserei. Ma credo che non sia questo il caso. Credo di aver visto uno davvero fuori ritmo. E questa è un'altra cosa. Carlo, tu come la pensi? Ma io la penso esattamente come Michele, cioè non credo che Lautaro abbia voglia di giocarsi la faccia in questo finale di stagione. È un giocatore, però non nascondiamoci che è un giocatore determinante per l'Inter, eh. Cioè l'Inter vale tutto quello che abbiamo detto prima, può tornare in corsa per lo scudetto, non dimentichiamo che è in corsa ancora in Europa League, però ha bisogno del miglior Lautaro, perché è quello che ti fa la differenza, quello che è trasformatore di energia. Va bene, allora abbiamo il traffico, ci fermiamo, saluto Michele Dalai. Però non sinceramente non farei catastrofismi, ripeto, io no, noi mettiamo insieme i voti nelle ultime 5-6, Lautaro viaggia tra 4 e mezzo e 5, non è solo questo di ieri, altrimenti saremmo dei pazzi tutti, compresi chi oggi l'ha scritto. Ed è anche vero che ha sicuramente delle caratteristiche fisiche che invece rendevano apparentemente più facile, no? Ripartire veloce. E invece poi il solito meraviglioso Lukaku, con tutto che invece ha le caratteristiche opposte, la prestazione la fa sempre. Quindi sono d'accordo con te, non voglio assolvere Lautaro, però dico che insomma è una partita. Ieri intanto abbiamo visto Eriksen secondo me è fondamentale. Eriksen è un conto di mercato secondo me è clamoroso. Conte, io non cambio idea, nelle prime settimane non ha trovato la quadra, anche se è un grande allenatore, non ha trovato una quadra. Adesso la partita di ieri lancia su quel fronte lì dei segnali molto incoraggianti. Lautaro va riportato al centro del progetto, su questo non c'è dubbio. Non è un dettaglio, però no, insomma, non esagerare. Che c'è ancora mezza stagione più o meno fare. A me ieri l'Inter ha abbastanza impressionato nei limiti, eh? Cioè mi è piaciuta molto a me l'Inter ieri. Abbiamo il traffico, Piero. Allora, saluto questa volta veramente Michele Dalai. Ciao Michele. Braccio, ciao. Tanto la vicenda Lautaro e tutto quello che segue è semplicemente aggiornata già ai prossimi giorni. Piero e Carlo lì, abbiamo il traffico e poi torna Varanato. I love this game. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Torna anche VAR Anatomy in questo Tutti Convocati weekend specialissimo estate. Saremmo dovuti essere qui a raccontare l'Europeo e poi le Olimpiadi, invece racconteremo il finale della Serie A, racconteremo ad agosto Champions ed Europa League. E poi tireremo dritti, ricominceremo con la nuova stagione e andremo avanti fino all'Europeo e poi di nuovo a portarci in tutto quello che ci aspetta dopo. Sarà faticoso, ma sarà anche bellissimo per chi ama il calcio e chi ama lo sport, perché arriveranno poi anche motori, basket e tanto altro. Allora, Luca Marelli, ciao, buon pomeriggio, ben ritrovato. Sento niente. Ecco, neanche noi adesso recuperiamo la linea con Edoardo Lazzari e Peter Bescapè. E questo è il bello della diretta, ragazzi, siamo un po' arrugginiti anche noi, ma adesso recuperiamo il collegamento con Luca Marelli. Sì, vi sono piaciuti gli arbitraggi? Mancato, a proposito, sì, figurati. Oggi che Piero andava tutto bene, pur essendo felicemente dove si trova, c'è caduto Luca Marelli. In mezzo al mare. Vi sono piaciuti i due arbitraggi, Orsato e Rocchi, Piero e Carlo? E comincia, ma allora il primo arbitraggio mi pare che abbia avuto delle sbavature soprattutto nella tempistica, poi corrette dal VAR, no? Quindi questo credo sia il tema. Ancora una volta noi il VAR sappiamo, l'abbiamo mille volte stigmatizzato per alcuni errori, poi secondo me nella maggioranza dei casi risolve problemi più che costruire problemi. Quando li costruisce sono dolori, ma quando li risolve... Sì, venerdì però, sera ha funzionato benissimo. Non mi è sembrato in una forma clamorosa, però insomma poi alla fine il VAR mi pare che abbia risolto tutta una serie di situazioni. Ieri, non lo so, sono molto curioso di sentire il giudizio sul secondo possibile giallo di Young, perché lì secondo me si può discutere, però insomma mi sembra meglio. Stiamo lavorando per ripristinare il collegamento. Ho visto, Carlo, anche tentativi di atteggiamento diverso nei confronti dell'arbitro. Ieri Rocchi ha fatto un po' fatica, sì, a tenere a distanza i giocatori, se ne è parlato tanto in queste settimane. Sì, sì, no, ma sia dal punto di vista dei colloqui tra gli studenti e il professore, che dal punto di vista comunque anche dell'emotività, degli abbracci, eccetera, eccetera. In Germania abbiamo visto cose un po' diverse, cioè lì effettivamente sono stati più ligi al dovere. Qualche protesta abbiamo vista, però a me gli arbitraggi sono piaciuti. Se Pier faceva riferimento alle sbavature di Torino, se per arbitraggio mettiamo tutto quanto nel pacchetto, mi sono sembrati arbitraggi. Sì, mi sono sembrati arbitraggi ineccepibili, quasi. Credo anche, ne parlavo prima delle partite con mio amico Ciro Ferrara, credo, quindi poi il discorso è solo relativo, che in assoluto la componente pubblico, che ripeto, spero che torni domani mattina, se possibile, sia ben chiaro, però magari dal punto di vista degli arbitri può in qualche momento forse alleggerire. Può alleggerire. Allora, no? anche abbiamo recuperato Luca Marelli. Giocatori. Vai, Luca. Purtroppo sarà un varanato di 3 minuti, non di più. Ciao Luca, buon pomeriggio, ben ritrovato. Non c'è problema, ci sistemeremo nelle prossime settimane. Allora, chiedeva Pier, provando sul dettaglio, poi alla fine mi darai il voto complessivo delle due direzioni di Orsato e Rocchi. Ieri tanti sono rimasti incuriositi dal secondo giallo che non c'è stato di Young, già ammonito. Parliamo di un episodio del primo tempo. Sì, è una decisione che mi trova d'accordo. Siamo sicuramente al limite, però è una seconda ammonizione. Politano ha molto accentuato la caduta, il contatto c'è stato, però definirlo un fallo imprudente mi sembra decisamente troppo, soprattutto perché si tratta di un secondo cartellino giallo. Che voto dai ai due? Perché noi abbiamo parlato per settimana delle squadre che arrivavano scarse di condizione, poi c'è la 21esima squadra del campionato di Serie A, che è quella degli arbitri, che forse ha avuto ancora meno spazio e tempo di prepararsi rispetto alle altre 20. Sì, c'è la differenza che gli arbitri non possono preparare nulla dal punto di vista tecnico, e infatti si è visto, perché la tecnica si allena solo ed esclusivamente durante le partite. Diciamo che è sufficiente, diciamo, una prestazione sufficiente di Orsato, un po' meglio Rocchi, l'ho visto un pochino più sul pezzo. Soprattutto il primo tempo di Orsato è stato abbastanza negativo, il secondo è stato buono. Rocchi ieri mi è piaciuto, in generale ha commesso un errore abbastanza strano a 20esimo del secondo tempo, nel momento in cui ha interrotto l'azione, che in realtà era rimasto il possesso del pallone, ecco, alla è stato a un errore o è un'interpretazione corretta? No, è un errore. La rimessa da parte dell'arbitro, nel caso in cui il pallone tocchi l'arbitro stesso, deve avvenire solamente se cambia il possesso oppure se la deviazione innesca un'azione potenzialmente pericolosa per la difesa. In questo caso no, è un errore, perché il pallone passato da Di Lorenzo sarebbe arrivato comunque a Insigne, poteva evitarlo. È un errore probabilmente, come ho detto, da qualche straterello di ruggine che si è accumulato in questi 3 mesi. Guardando anche a quello che si è visto ad esempio in Bundesliga o i primi vagiti del ritorno di stagione in Spagna, si vede qualcosa delle nuove regole? Perché ricordiamoci, l'IFAB ha dato l'autorizzazione, al di là dei 5 cambi, a inserire già in corsa qualche modifica regolamentare che Collina ci ha raccontato nei mesi scorsi. Nessun campionato che è stato ripreso ha adottato, o chi riprenderà, compresa la Premier League, adotterà le nuove regole. Ci saranno soltanto 5 cambi che sono dovuti alla tutela della salute dei giocatori, e il distanziamento dei giocatori dall'arbitro. Ci sarà un pochino più attenzione, ma non aspettatevi giocatori che rimarranno tutti a distanza, anche perché è bene naturale avvicinarsi al direttore di gara per chiacchierare. In realtà si protesta, non si dovrebbe, però lo sappiamo che è difficile rispettare questa regola. Per quanto riguarda gli arbitri, sono tutti più o meno nella stessa situazione. Anche nel campionato tedesco, nelle ultime giornate, le direzioni arbitrali sono decisamente migliori. Le prime 2 giornate sono state un po' titubanti. Infatti non mi aspetto un granché dai recuperi della prima giornata, il valore vero degli arbitri verrà fuori tra 3 settimane, quando avranno tutti comunque diretto almeno una partita. Ci vuole tempo per togliere la ruggine. Grazie Luca. Voi. Alla prossima, allora abbiamo il GR, saluto anche Pierluigi Pardo, ciao Piera, domani. Ciao ragazzi, ciao. Carlo resta invece con me, dopo il GR delle 18 abbiamo Milena Bertolini, CT della Nazionale Femminile di Calcio. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23.20, manca 23.24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da... Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani. Con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese. Zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro. TAN 6,75, TAI GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. Scegli la forza di Nolvet in Extra Group per il business di domani. Con noi valuti i partner d'affari, scopri i rischi e sei sempre aggiornato su rating e affidabilità. Vai su innolva.it o chiama il numero verde 800 222 320. Innolva. Risolve. 10 anni fa mi hanno diagnosticato un cancro polmone. Quando ti arriva una botta del genere sulla testa, la vita ti cambia un po'. Quando tu hai delle testimonianze di gente che sulla propria pelle ha vissuto questa esperienza drammatica e ne è uscita grazie alla ricerca, uno non può non credere. Io sono una prova vivente per adesso, spero di andare avanti ancora. Maurizio, fra i tanti curati dal cancro, con fiducia ha cambiato il suo domani. Anche il tuo 5 per 1000 può cambiare il domani. Sostieni la ricerca sul cancro. Firma per la Fondazione AIRC. Buongiorno Italia, è il vostro Segugio che parla. È stata dura, ma eccoci qui, pronti a ripartire con la nostra vita di sempre e pronti a tornare alla guida, liberi. Che farò io? Continuerò la mia missione di sempre, farvi risparmiare sulla polizza auto e moto. Su segugio.it confronti le migliori assicurazioni online e risparmi senza costi aggiuntivi. E ora rimettiamoci in moto, tutti insieme. Segugio.it, il supereroe del risparmio. Convocati. Sul secondo palo verso Bonanzea. Bonanzea di testa! Sul più bello! Facciamo gol ancora con lei! Barbara Bonanzea! 2-1 per l'Italia! 2-1 per l'Italia! 2-1 per l'Italia! 2-1 per l'Italia! 2-1 per l'Italia! Le calciatrici non sono deputate a decidere se scendere in campo o no, però siamo deputate a dire quelle che sono le condizioni minime che riteniamo opportune per pensare di riprendere e magari vedere in questa ripresa un'opportunità per dare ancora visibilità a uno sport che stavamo appena lanciando. Abbiamo deciso di sospendere anche il campionato femminile di Serie A, andando incontro anche per quanto riguarda le ragazze ad erogare parte del fondo di solidarietà, però devo dire per me sarebbe stato un bellissimo spot per tutto il movimento sportivo, il movimento del calcio, dare pari dignità alle ragazze. Sembra passata un'era geologica, carissimo Carlo, invece era solo la scorsa estate, quella del mondiale femminile che ci ha fatto innamorare della nazionale e sarebbe dovuto essere il trampolino di lancio per il rilancio del calcio femminile. Si è fermato tutto, l'abbiamo sentito dalle parole del presidente federale Gravina. Saluto Milena Bertolini, CT di quella nazionale. Milena, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. Allora, io vi ricordo i nostri numeri, 800 24 00 24, numero verde per intervenire, ci sono già tanti che si sono prenotati, poi diamo spazio anche a voi, 349 238 6666, sms e whatsapp. Milena, era inevitabile fermarsi o c'era magari lo spazio per provare a dare una conclusione anche alla stagione femminile? Ma io credo che, non, che si poteva concludere la stagione femminile anche perché mancavano solamente 6 partite, c'era tutto il tempo per poterla finire, però è chiaro che se le ragazze non sono state fatte allenare, le ragazze, e quindi quando tu arrivi a fine maggio, ai primi di giugno, dove solamente due squadre hanno fatto allenare le ragazze, tutte le altre no, dopo diventa più complicato. Però credo che sia mancata la volontà forte di farlo finire. No? Se tutte le società avessero fatto allenare le ragazze dal 4 di maggio, come poi del resto le società maschili hanno fatto per i ragazzi, le condizioni per finirlo c'erano tutte. Sì, si sarebbe riattaccata quella spina che tra i maschi è stata riattaccata, tra le donne invece no, Carlo, no? Ed è un peccato. Cioè, sì, no, io sono, guarda Giovanni, sono abbastanza preoccupato per due aspetti che vorrei condividere con Milena. Il primo l'abbiamo sentito dalla sua voce nella intro, cioè è un movimento che era in fase di lancio, era in fase di consacrazione ed è stato stoppato, ed è stoppato per tanto tempo. E poi sono atlete professioniste, anche qui Milena lo diceva, non ancora, questo è un macro tema. No, ma sì, ma ok, però di fatto sono sì, sono molte ormai fanno le calciatrici praticamente quello. Tempo pieno. Esatto. Quindi la preoccupazione è quella che abbiamo espresso lungo tutti questi mesi: quando lasci un atleta professionista in garage a prendere polvere, è una fuoriserie, rischia qualche danno. Queste sono le mie due Milena? Preoccupazioni. No, ma io condivido. Io, è chiaro che era importante continuare il percorso che è iniziato dal mondiale, dove nel mondiale c'è stata un'accelerazione forte, ma diciamo che questo percorso è iniziato nel 2017, insomma, quando ci sono state le scelte della federazione nel far sì che le squadre professionistiche avessero il calcio femminile, quindi l'entrata dei club professionistici nel calcio femminile ha aiutato il percorso della nazionale, sicuramente un percorso che con i mondiali è stato accelerato. È chiaro che bisogna dare continuità e quello che penso io è questo: noi è indubbio che siamo indietro rispetto agli altri paesi, insomma 20 anni di mancate progettualità non si azzerano in 5 anni, e quindi ecco perché era fondamentale finire questo campionato, perché le nostre atlete, che sono non professioniste di status ma lo sono di fatto, sono un patrimonio del nostro calcio, e quindi lasciare delle atlete di livello nazionale e internazionale a non allenarsi per 5-6 mesi è un qualcosa che non ci sta, è una mancanza di rispetto verso di loro, è una mancanza poi di rispetto verso anche la pari dignità delle donne. E cosa significa questo? Significa che quando tu ripartirai, certo ripartirai, ma dovrai colmare di nuovo un gap che è già ampio rispetto alle altre nazionali e alle altre nazioni. Le altre nazioni, anche se si fermano 3 mesi, 4 mesi, come può essere stato il campionato francese o altri, è diverso, perché loro sono già un movimento strutturato con atlete formate. Noi abbiamo atlete che sono in formazione ed è un movimento che è in formazione, quindi il fermarlo poi quando riparti, è chiaro che la ripartenza poi le paghi, ecco, tutto questo. Le hai sentite in queste settimane, immagino? Le ragazze? Sì, ci siamo viste, perché ho fatto loro una sorpresa, nel senso che il 9 giugno, il giorno alle ore 13, orario di partita un anno fa di Italia-Australia, ci siamo trovate tutte insieme sulla piattaforma Zoom e abbiamo rivissuto un po' quella giornata. È chiaro che è venuta dopo lo stop al campionato e quindi insomma l'umore non era dei migliori, c'erano molte facce tristi perché molte di loro avrebbero voluto finire il campionato. E come si tiene la spina attaccata nei prossimi mesi? Ma diciamo che si tiene attaccata soprattutto perché le ragazze hanno una grande motivazione, una grande forza, una grande passione. Adesso loro sicuramente andranno in vacanza, perché credo che siano meritate, perché tutte queste ragazze in questi mesi hanno lavorato duramente in condizioni incredibili e sono arrivate anche un po' forse esasperate a fine maggio, senza avere certezze sul loro quello che sarà, che poteva essere dopo. Adesso andranno un po' in vacanza, poi ripartiranno con quella grande forza e passione e fuoco che loro hanno e li troveranno le motivazioni. È chiaro che facendo sempre un po' più fatica, il dotto della fatica, ma questo sembra quasi sempre un destino delle donne, di dover fare sempre più fatica per riuscire a fare le cose. Sì, è una tela che si fa e si disfa, nottetempo in questo caso, non nottetempo, ma insomma in tanti hanno pensato che potesse arrivare in fondo quel campionato, forse anche le ragazze, no Carlo, della Juventus, che di fatto lo avevano moralmente vinto. Io ho molto apprezzato, non so tu, l'idea che non ci sia stata poi una rivendicazione sulla decisione di non assegnarlo. No, grande eleganza, assolutamente, giusto così, mi è sembrato un gesto corretto, ripeto, di grande eleganza. Ma volevo chiedere a Milena se il Club Italia può fare qualcosa per accelerare la ripresa, nel senso, è possibile prevedere qualche raduno della tua nazionale prima ancora della ripresa degli allenamenti con i club? Scusate perché è andata via la voce, però credo di avere sentito la domanda. Allora, credo che sarà difficile poter fare dei raduni prima, anche perché adesso le ragazze, insomma, dopo questo periodo pesante e snervante anche da un punto di vista psicologico, come dicevo prima, non sapendo mai se avresti iniziato o no, queste cose l'hanno un po' esasperate, andranno in vacanza. Poi è chiaro che dovranno ritrovarsi con i loro club e credo che la preparazione dovrà essere per forza una preparazione molto lunga, perché dopo 5 mesi di inattività, insomma, almeno 6, 7, 8 settimane di lavoro ci devono essere, quindi non credo ci siano i tempi per la nazionale, però il mio augurio è che insomma ci possano essere prima del raduno magari un periodo un pochettino più lungo, perché il nostro problema sarà quello che non ti vedi da 6 mesi, non ti alleni per 5 mesi. Il riconnettersi non è facile, ci sono subito partite di qualificazione importanti. Sì, bisogna non perdere tempo quando poi si ricomincia. A proposito, e poi ti saluto e ti ringrazio, non so se hai visto le due semifinali di cui abbiamo parlato ampiamente nella prima ora del programma, ti chiedo se è stato secondo te calcio vero o quanto ci è andato distante. No, io credo che sia stato bello rivedere il calcio, perché il calcio sappiamo che ha un impatto importante, è uno sport che muove veramente emozioni forti, passioni, quindi è stato importante. È chiaro che è stato un calcio meno intenso, dove io la cosa che ho notato è che l'aspetto della coordinazione tempo-spaziale è stato l'aspetto secondo me che ha inciso di più, dove vedevamo un po' giocatori un po' magari in ritardo, fuori tempo, ma questo secondo me è dovuto sia al fatto della mancanza di abitudine nel giocare per tanto tempo, ma ci sono anche poi dei risvolti psicologici, perché non dimentichiamo che il lockdown è vero che ci ha fermato fisicamente, ma comunque va a incidere anche sull'aspetto mentale e quindi era normale. Sì, non sono state 3 mesi di vacanza, ma sono stati 3 mesi di profondo dolore e riflessione per tutti e questo non va mai dimenticato. Esatto, e anche innumerevoli infortuni che ci sono non sono un caso, perché non è solo da pensarli in termini fisici ma in termini generali, perché noi siamo un'unità completa e quindi l'aspetto psicologico di paure, di incertezze eccetera va ad incidere. Però credo che con la prossima partita, già della finale ma già le prime di campionato, insomma, chi ha fatto partite poi insomma si ritornerà ad avere un calcio più intenso, ma poi non è detto che il fatto che il calcio sia molto intenso sia l'aspetto positivo, perché magari scopriamo anche che il calcio può essere anche molto tecnico e fatto anche di altri aspetti. Sì, si può anche viaggiare, esatto, si può anche viaggiare con un cilindro in meno e divertirsi ugualmente. Grazie Milena. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Milena Bertolini. Traffico, carissimo Carlo, poi facciamo il gioco delle coppie scoppiate. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Basta chiedere se vado all'allenamento o non vado all'allenamento. Io vado all'allenamento, ragazzi. Sono sempre andato all'allenamento. Basta, ti giuro. Cioè, basta chiedere. Se volete sapere se vado all'allenamento o meno, presentatevi qua. Allora, adesso, carissimo Carlo, facciamo il gioco di quelli che sono scoppiati nei 3 mesi di lontananza forzata. E abbiamo sentito Mario Balotelli. Saluto Sandro Sabatini. Ciao Sandro. Ciao, buona domenica. Allora, 800 24 00 24. Bruno, Loredana, Graziano, Roberto, Claudio, Sergio, un altro Roberto. Adesso fra qualche istante arriva il vostro momento. Allora, coppie scoppiate, Balotelli-Brescia, io credo si prenda, carissimo Sandro, la copertina, no? Finale inevitabile. Sì, sì, finale inevitabile con qualche strascico, secondo me, evitabile però, perché non è necessario che debba litigare. Non ho capito la cosa dei tamponi fatti o non fatti, molto spiacevole, comunque sia la verità. È spiacevole il fatto che l'uno stia dicendo all'altro che è un bugiardo. Capito? Questo è. Vabbè, mi Sandro, auguro. Quando finisce un matrimonio volano gli stracci, no? Sì. Purtroppo in maniera totalmente inelegante. Sì, sì, ma La Guerra dei Roses è un film che ha accompagnato la nostra vita, perché poi l'abbiamo vissuto in varie declinazioni, capito? L'abbiamo visto in mille altri casi. Detto questo, definire matrimonio quello tra Balotelli e il Brescia mi sembra un po' così ingigantire. Un rapporto era un fidanzamento, cos'era? Sì, una sì, promessa. Un fidanzamento tra due che si dovevano guardare un filo anche con un pochino di diffidenza e di sospetto, perché un fidanzamento tra persone calcisticamente volubili come Cellino e Balotelli, capito? Sì, prometteva scintille sin dall'inizio, anche perché l'ufficiante, esatto, era un certo Mino Raiola, quindi insomma, stiamo parlando comunque di un personaggio che ci dà molto da lavorare. Altro matrimonio scoppiato, Ibrahimovic-Gazidis. Ma quello in realtà è figlio, Ibrahimovic è figlio di Boban, quindi capito, sono i figli che poi pagano anche le separazioni tra i genitori, mi è sembrata una cosa talmente evidente che credo che sia non mi piace, perché io sinceramente questo Gazidis a me l'ho trovato abbastanza esagerata come nomina, come stipendio, come poteri, fin dal suo primo giorno al Milan, devo essere sincero. E poi vedo che, capito, nell'ultima settimana ci sono due notizie. Una, Ibrahimovic che di fatto ufficializza il divorzio con il Milan rispondendo parola per punto per punto e parola per parola a Gazidis a Milanello, e il secondo che il Milan acquista per l'anno prossimo, il primo acquisto è un ragazzo del 2000 che è della primavera del Lione. Io devo dirti, guarda, io ho detto, pensato e scritto quando è uscita la storia dello scazzo tra Ibrahimovic e Gazidis, Ibra ha fatto quello che milioni di tifosi del Milan avrebbero voluto fare, cioè dire scusate dove ci state portando. Sì. E poi qualche tifoso del Milan mi ha detto, però è stato un po' egoista, perché ha anteposto una sua questione personale al bene del Milan, che in quel momento era preparare con calma la semifinale con la Juventus. Non è tanto egoismo, secondo me. Va bene anche che Ibrahimovic vada a parlare da leader a muso duro con Gazidis, non pubblicamente però, prende un appuntamento, scusi signor Gazidis, quando possiamo trovarci? Poi vai lì e gliele canti fino a quando ne hai voglia, anche a nome del gruppo. Quindi sono state le modalità, secondo me, più della sostanza. Chiaro che c'è un po' di rivincita, Sandro ha ragione, Gazidis non ha portato finora praticamente nulla al Milan da ogni punto di vista. Però le modalità sono state, hanno aggiunto casino a un casino che già esiste. Altra coppia scoppiata, Pallotta-Friedkin, insomma, cessione della Roma che sembrava fatta e che è saltata. Aggiungo perché in realtà oggi sui giornali la coppia scoppiata è quella tra Pallotta e Petrachi, il direttore sportivo della Roma che si lamenta perché non gli fanno chiudere l'acquisto di Pedro. Ora Sandro, tu sei un esperto di calcio mercato, quante ne hai viste di storie così? Ma ne ho viste tante, ma mi sembra che, capito, che anche qui ci sia un tutto come previsto, perché cioè alla fine Trachi va in una società, sapeva dove andava in una società nella quale c'erano da fare i conti, e progetti ambiziosi sì, ma erano tutti progetti declinati poi verso una cessione del pacchetto di maggioranza da parte di Pallotta, e nel momento in cui manca questa cessione è chiaro che il padrone, il proprietario, il presidente Pallotta, insomma, dice a Petrachi preoccupati prima delle cessioni e poi vedremo gli acquisti. Cioè, come prima sentivo da Carlo, capito, la società ha le sue ragioni nei confronti di Ibrahimovic, che può essere accusato anche dai tifosi di essere di egoismo, secondo me ha maggior ragione trattandosi non di un giocatore ma di un dirigente che quindi deve dirigere per conto della proprietà. Io credo che il Petrachi non si deve stupire se un tuo presidente ti dice guarda che prima c'è da mettere a posto i conti e poi c'è da pensare agli acquisti o al progetto. Sì, fare elenco delle priorità. Sai, perdonami Sandro, aiutami. Mi pare che anche l'uscita di Sabatini dalla Roma fosse legata a un nome di un'operazione, non so se poi lui la rivelò mai, non fatta concludere. Sì, ma che Pallotta sia un personaggio comunque, diciamo, non aderente al calcio italiano, ma molto americano, e con questa lontananza mediata da Baldini, che un po' sta a Londra, un po' sta in Sudafrica, un po' non si sa dove sta, è sempre stata un'anomalia per la gestione, come la intendiamo noi, di una società di calcio in generale, ecco, come la intendiamo noi. E ripeto, credo che sia stato comunque questo uno dei divorzi, uno degli attriti accentuati anche non dalla pandemia o dal lockdown in sé dal punto di vista sanitario, ma semplicemente dal punto di vista economico e finanziario, perché Pallotta è entrato in lockdown pensando ad aver venduto la Roma a Friedkin, è uscito al lockdown che Friedkin non c'era più. Sì, e che c'erano invece conti, insomma, su cui riflettere. Grazie Sandro. Grazie a voi. Grazie Sandro. Ciao. Sabatini, poi ti anticipo Carlo, ma ne parliamo alle 18:45 quando apriamo una pagina sul basket, che tra i matrimoni scoppiati c'è anche quello di Pozzecco con Sassari, notizia di oggi. Incredibile. Ne parliamo. Sì, 800 24 00 24. Roberto da Milano, Roberto. Grazie per mi chiama convocato a Carlo Genta e Giovanni. Guarda, niente, la domanda era sul Milan. Appunto stavo appunto ascoltando questo anch'io con attenzione. Dico, cosa ne farà questo Milan? Ci sarà una nuova società o anche come direttore tecnico e anche di tu l'allenatore, perché io più lo vedo bene, però nel caso dovesse andare via, dico, sperando di no, vedrei bene questo Roberto De Zerbis. Credo che sia tutto un po' scritto, no? Roberto da Milano, cioè io credo che Pioli sia un dead man walking a livello da allenatore del Milan. Gazzidis ha i pieni poteri, ridisegnerà un po' tutto l'apparato tecnico del Milan e almeno questa volta, non so Carlo come la pensi tu, ci sarà chiarezza, nel senso che fra qualche mese non ci sarà più l'alibi di dire che le scelte sono state in parte condivise, in parte no, ma comunque ereditate da gestioni di altri. Esatto, i tifosi del Milan avranno la chiarezza delle colpe e delle responsabilità, cioè non dovesse funzionare il progetto, il responsabile è unico ed è chiaro, e quindi banalmente sapranno con chi prendersela nel caso in cui le cose non dovessero funzionare. Non vedo benissimo sinceramente il futuro immediato del Milan, non ci sarà un cambio societario, per rispondere anche all'ascoltatore, sì, inteso perché come proprietà. Al momento non è previsto come proprietà, certo. Poi non mi convince tanto il progetto di cui si intravedono linee ancora abbastanza confuse, Giovanni. Abbiamo aperto un filone, ci stanno scrivendo in tantissimi tra le coppie scoppiate Higuain Juventus, Vettel Ferrari, prometto che in settimana ne parliamo. Graziano dalla provincia di Ancona, Graziano. Buonasera, grazie per la convocazione. Buonasera a te. Volevo intervenire sulla probabile vendita di Lautaro. Sì. Io penso che allora questo cinese è venuto in Italia per fare gli affari. Sarebbe per fare Suning. Ecco, ma per fare in business, perché questi l'abbiamo visti. Abbiamo visto una Roma che ha venduto tutto il possibile, no? Se questo c'è un giocatore di 23 anni che può migliorare, che si accoppia benissimo con Lautaro, con Lukaku, che può fare la differenza, poi adesso vediamo che lo vende, ma allora qui c'è qualcosa che non va, che non va. Io non credo che Zhang sia venuto a fare un business, di soldi nell'Inter ne ha messi tanti in questi anni e continuerà a metterli, e l'Inter è cresciuta, è indiscutibile sia dal punto di vista tecnico sia soprattutto dal punto di vista societario. Certo è, io lo dico, così vi dico che cosa ne penso, che secondo me un giocatore di prospettiva 23enne come Lautaro Martinez di solito non si vende e si blinda prima che arrivi l'offerta da 10 milioni di euro più bonus di stipendio dal Barcellona dell'amico Messi, che poi in presenza di una clausola diventa difficile da difendere. Sottolineo, e questo secondo me è il peccato d'origine dell'Inter, che le parole di Marotta, va via solo per la clausola 111 milioni di euro in quella settimana lì di luglio, sono arrivate abbondantemente a tempo scaduto, cioè il nome Lautaro Martinez sui quotidiani spagnoli ha ballato praticamente da gennaio quotidianamente su tutte le prime pagine. Forse l'Inter se aveva veramente l'intenzione di fermarlo, doveva fare qualcosa prima anche a livello di comunicazione, ma questo è il mio parere. Giovanni, sei proprio tu ad avermi confidato in tempi non sospetti, tanto tempo fa, la tua sensazione, che poi era giusta, si è rivelata giusta, che l'Inter non stesse esattamente facendo le barricate per Lautaro, motivi abbastanza sconosciuti. Bruno, provincia di Bari. Bruno. Sì, buonasera, grazie per la convocazione. Vai. Allora, volevo introdurre questo argomento. Si è parlato all'inizio marzo, durante l'inizio del lockdown, di un parziale taglio, ridimensionamento degli stipendi dei calciatori. Ora è tornato il calcio, meno male, speriamo tornino anche gli spettatori allo stadio, è un bellissimo spettacolo, però mi sembra che il mondo del calcio continui a essere distante dalla realtà. La realtà di oggi è comunque fatta di sofferenza, di gente che ha perso il lavoro. Che ne è di quel gesto di sensibilità sul quale poi non tutti i calciatori erano così unanimi, di ridimensionamento degli emolumenti che prendono? No, ma Bruno, il club per club, un po' in ordine sparso, i tagli sono arrivati, stanno arrivando, e poi, come è stato chiarito sin dall'inizio, al di là delle belle parole, si tratta di accordi personali, perché tutti i rapporti di lavoro, anche il tuo, il mio, con le nostre aziende, sono rapporti personali che sono normati da accordi personali. C'è chi sta facendo un po' più fatica, chi meno, ma io non credo, io credo sia stato abbastanza demagogico in queste settimane sostenere da parte di qualcuno che il taglio degli stipendi dovesse andare per fare beneficenza piuttosto che per sostenere la sanità. No, in questo caso il taglio degli stipendi serve per alleggerire i conti delle aziende, dei giocatori, quindi dei club che sono in forte sofferenza, al sistema sanitario e tutto il resto. Pensi lo Stato, con i soldi delle tasse che il calcio tra l'altro versa in maniera abbondante tutte le stagioni, proprio attingendo dagli stipendi ricchissimi. Poi è chiaro, e lo misuriamo già in queste settimane, che quest'anno difficilmente vedremo stipendi come quelli che abbiamo visto negli anni scorsi, e colpi da 100 milioni di euro. Oggi l'ha detto anche Leonardo, direttore generale del Paris Saint-Germain. Ha detto: il PSG perde 200 milioni di euro causa coronavirus, dovremo fare un mercato un po' creativo. Fa sorridere, detto da loro, perché comunque sarà un mercato ricco, e lo è già stato con Icardi, però dà un po' il senso della misura che ci troviamo oggi, con cui ci troviamo oggi a confrontarci. Allora Carlo, ci dobbiamo fermare. Dicevo, i tagli li farà il mercato nel futuro, per i contratti attuali valgono le normative vigenti, gli accordi. Non è che puoi andare e tagliarlo, e in realtà già qualcosa si sta facendo, insomma. E allora ci fermiamo un minuto, poi andiamo in Spagna. Ieri abbiamo visto Messi il Barcellona, Filippo Maria Ricci. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Convocati. Andiamo in Spagna dal nostro Filippo Maria Ricci, perché è partita anche la Liga, oggi Athletic Bilbao, Atletico Madrid 1-1, Muniain e Diego Costa, tutto in due minuti nel primo tempo, 37esimo e 39esimo. Alle 19.30 vedremo Real Madrid in casa contro l'Eibar, in casa ma non al Bernabeu, e poi alle 22 Real Sociedad Osasuna. Ieri abbiamo visto la prima recita del Barcellona di Messi. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Allora, dove partiamo? Da Barcellona-Messi, da quello che succede? Non so, dalla formazione? Ma anche... Non gioca Bale, per esempio, gioca Rodrigo e Hazard, oppure a centrocampo giocano ancora i soliti, Kroos, Casemiro e Modric, quindi senza Valverde. È la 200esima di Zidane, no? 200 di Zidane, sono andati allo stadio a piedi, perché giocano a Valdebebas e quindi si allenano a Valdebebas, e quindi sono arrivati allo stadio a piedi. Questo il nuovo, diciamo, la nuova normalità, come la chiamano qua, anche perché lì ne hanno approfittato per continuare a fare esatto, i lavori del Bernabeu, sì. Tanto per giocare a porte vuote basta il campo B. Esatto, anche se poi probabilmente queste porte si apriranno, quindi poi vedremo, no? Hanno rifiutato l'offerta dell'Atletico Madrid di andare a giocare al Wanda Metropolitano, però vedremo. Adesso, diciamo, le porte sono chiuse fino a luglio, poi si vedrà. Carlo, non so se ieri hai buttato un occhio, dimmi. No, guardato, no, è stata curiosa, abbiamo parlato anche in settimana quella dell'Atletico Madrid e dello stadio rifiutato, è come se la Juventus si rifiutasse di giocare nello stadio del Torino, più o meno. Però volevo chiedere a Filippo, sì, che tra l'altro il caso della Juve è stato suo per tanto tempo, suo nel senso in coabitazione. Esatto, sì. Che impressione ha avuto sulle prime partite? Perché noi parlavamo delle sensazioni dopo le due partite di Coppa Italia qui, tu in Spagna che sensazione hai avuto, Filippo? Positiva, a parte sì, alcune invenzioni. Allora, qua c'è la televisione che mette il pubblico finto, però tu puoi scegliere il canale col pubblico finto o il canale senza. Però ieri sera il Mallorca ha messo il pubblico finto proprio dagli altoparlanti, quindi non potevi toglierlo, e sinceramente è abbastanza patetico, sì. Anche perché poi stai perdendo 4-0. Non è neanche portato benissimo. No, ma poi comunque perdi 4-0, c'è il pubblico che fa lì che canta, sì, magari avercela, diciamo, questo tipo di affissione, come dicono qua, questi grandi tifosi, però sono registrati, quindi non valgono. E per cui, a parte queste cose, il livello del calcio mi sembra positivo, non fa ancora tanto caldo, perché qua in Spagna i giochi si faranno duri quando arriva veramente l'estate, ancora non è arrivata. E allora dopo li voglio vedere a giocare anche con 5 cambi. Per ora la temperatura va bene, per cui insomma non c'è un grandissimo ritmo, ma mi sembra partite piacevoli, insomma, e dignitose. E poi c'è Messi. Sì, ieri Barcellona abbastanza sotto ritmo, ma era più che sufficiente. Sì. È stato più che sufficiente. Sì, non è stato un gran Barça. Fa ride perché dice ha vinto 4-0. Dice no, però il Mallorca ha fatto anche 10 tiri. Insomma, mi sembra veramente eccessivo concedere 10 tiri a una squadra come il Mallorca. Per cui lo vedremo in impegni più probanti. Adesso la prossima è con Leganés. Vediamo anche la gestione della rosa, perché il Barcellona c'ha una rosa cortissima, cioè il Barcellona c'ha 18 giocatori, il Madrid ne ha 24-25. Oggi adesso la prima partita, va bene, martedì Barcellona di nuovo in campo con Leganés, e quando poi bisogna fare 11 partite in 5 settimane, magari all'ottava, alla nona, due infortuni, un paio di squalifiche e non c'è più gente da mandare in campo. Insomma, ecco, questo andrà visto più avanti. Sì, motivo per cui saranno tutti abili arruolati, al netto delle distrazioni di mercato. Oggi firmi sul sito della Gazzetta, con qualche sviluppo insomma della trattativa, il triangolo, sì. No? Arthur, Pjanic, Juventus, Barcellona, quindi non è un triangolo ma è un quadrato. Sì, ieri è rimasto in panchina Arthur, questo è un segnale chiarissimo, e così è stato interpretato. È un preavviso di sfratto. Lecito, sì, era lecito aspettarselo, poi ovviamente Arthur giocherà perché deve giocare, appunto, come dicevo prima, sono in 18, non possono permettersi, però ieri è stato in panchina e poi il primo cambio a centrocampo è stato Rakitic, cioè lì giocano in tre per una maglia, no? Vidal, Rakitic e lo stesso Arthur. Ieri è partito Vidal, poi è entrato Rakitic e poi alla fine è entrato anche Arthur. Vediamo, per esempio ieri già De Jong è uscito con un affaticamento muscolare, quindi può darsi che giochi, però da quello che mi dicono continuano le pressioni del Barcellona per cercare di convincere Arthur ad andare in quella squadra che si chiama Juventus, che insomma veramente c'è molto di peggio nella vita. Tra l'altro qua sentivo voi che parlavate un po' di stipendi, di tagli di stipendi, insomma il Barcellona ha un problema serio economico, gli stipendi andranno tagliati, l'ha detto anche Tebas l'altro giorno, e vediamo come si mette. Arthur non ha un grande stipendio, alla Juventus guadagnerebbe molto di più. Per cui vediamo se cambia idea. Filippo, l'hanno spiegato Lautaro, no? Che gli stipendi verranno tagliati. Gliene danno 10, vabbè, ma poi glielo tagliano. No, però siccome guadagnava di più venendo dall'Inter, anche se glielo tagliano, dovrebbe comunque mantenere un certo margine, no? Ma a che punto è la raccolta fondi per arrivare a questi famosi 111 milioni di euro? Esatto, per ora male, non si muove niente. Qua tutti considerano un asso nella manica Coutinho, però Coutinho è stato pagato 150 milioni e non è che abbia proprio la fila di acquirenti fuori dalla sua porta. Per cui, dopodiché, sì, sai, ci vuole poco, dice sì, l'altro giorno al Mondo Deportivo, Junior Firpo 41 milioni, sì certo, sicuro proprio, sì. Oppure Todibo 25, va bene, certo, voglio vedere chi te li dà però, no? E via così, cioè Semedo 40, va bene, cioè, loro fanno i prezzi, ma poi vediamo quanta gente considera giusti quegli stessi prezzi, per ora… Sì. Sì. Io sono fermo a una meravigliosa prima pagina, perdonami, non ricordo se del Mondo Deportivo o di Sport, Pjanic, De Sciglio e 25 milioni per Semedo. Pjanic, De Sciglio e 25 milioni di euro, per carità, si può fare tutto, però. Sì, vale tutto, però no, guarda, prima cosa c'è da sistemare questo scambio fondamentale per il 30 giugno, per le plusvalenze, cioè il Barcellona deve mettere alla voce, diciamo, introiti da mercato, da giocatori venduti, 70 milioni entro il 30 giugno, oggi è il 14, mancano 16 giorni, quindi prima cosa da fare è sistemare quel tipo di bilancio. Dopodiché si sono inventati che la clausola di Lautaro scade il 15 luglio e non è vero, scade il 7, e hanno deciso loro che Marotta si sbaglia, hanno scritto l'altro giorno allora, sul mondo, Marotta si sbaglia, dico sì, va bene, allora si sbaglierà Marotta, ma non è così, e per cui c'è grande confusione sotto il cielo blaugrana, e per ora c'è solo Messi, l'unica certezza come sempre. Sì, il che poi dopo porterà tutti i protagonisti di questa storia a dover uscire dal guscio, perché se l'8 luglio il termine della clausola è scaduto e di Lautaro si continua a parlare senza prese di posizione chiare, ad esempio da parte dell'Inter, diventa molto più evidente che magari non, anche all'Inter non dispiace l'idea di fare una trattativa pur senza ancorarsi alla clausola, ma questa è una storia che noi è meravigliosa e abbiamo tutto l'estate per raccontarla. Sì. Filippo e anche Carlo, mancano le inglesi, abbiamo visto il Barcellona, tra meno di un'ora vediamo il Real Madrid, abbiamo visto la Juventus, il Napoli, abbiamo visto il Bayern di Monaco che tra un punto vincerà l'ottava Bundesliga di fila. Riuscite a buttare l'occhio, chi vuole sbilanciarsi dei due, su quello che può succedere ad agosto, tra l'altro in una Champions che non siamo abituati a conoscere così, con partite secche? No, è impossibile, è troppo lontano, ti dico, ci sono troppe incognite, per me il peso infortuni è importante. Bayern Monaco abbraccia, sì, campione del mondo, no? Campione del mondo, ma è ovvio, perché sono quelli più avanti nei lavori, poi però si dovrà fermare, signora squadra. Poi però sì, si troverà a fermare, magari si troverà a metà agosto però... scarico con gente stanca ma in pieno ritmo partita. Non so Carlo, tu come la vedi? No, però c'è da dire, non so, in questo momento è chiaro che sono, dovessero giocare domani non sarebbero neanche quotati. Si devono fermare, sì è vero, sarà interessante il fatto che comunque tutte le competitors non avranno in mezzo alle scatole il campionato, quindi... Questo vale sui due livelli. Tranne il PSG che potrebbe ricominciare quello dopo, sì. Il prossimo. Vabbè, sì. Vabbè, il PSG, io nemmeno lo conto. Nemmeno lo conto. Però, insomma, oggi è impossibile da leggere quello che sarà ad agosto. È vero che il Bayern Monaco si deve fermare, ma non è detto che la sosta che sia gli arrugginisca. Va bene, grazie Filippo. Grazie a voi, ciao, alla ciao, prossima. Ciao, grazie ciao, Filippo ciao. Maria Ricci. Allora, 19:30, come detto, Real Madrid dei Bar. A proposito, si continua a giocare anche in Germania Bundesliga. Oggi pomeriggio l'Augusta ha vinto 1-0 in casa del Mainz. Siamo negli ultimi istanti del primo tempo, anzi è finito in questo momento. Schalke 0-4, Bayer Leverkusen 0-0. E qui si gioca, per quanto riguarda il Bayer Leverkusen, soprattutto per cercare di prendersi un posto nella prossima Champions League. Allora, ci fermiamo, poi pallacanestro, la coppia scoppiata Sassari-Pozzecco, ma soprattutto andiamo a Pesaro, che ieri ha annunciato resta in Serie A. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. È stata una decisione molto, molto sofferta, molto difficile, come sapete tutti quanti, 7 giorni fa. A dire la verità, 7 giorni fa la decisione era, se devo dare una percentuale, direi l'80% o forse più per la 2 e il resto per la 1. Ma siamo stati qui tante ore a discutere, a vedere, a trovare il modo di a farci venire tutti i dubbi per rimanere in uno. E invece Pesaro resta in Serie A, e questa è una bella notizia per tutti gli amanti di basket. Saluto Ario Costa. Ciao Ario, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Una delle leggende di Pesaro e non solo, in generale uno dei nomi pesanti del basket italiano. Carlo, ti lascio la prima domanda. No, semplicemente Ario, complimenti per aver mantenuto Pesaro in Serie A, per la gioia di Valerio Bianchini, ma anche di Dan Peterson e tutti quelli che da amici o da avversari sono stati legati a questo club. Io mi auguro che sia più che il fatto, la certezza, estemporanea di avere la Serie A l'anno prossimo, mi auguro che si possano porre le basi per non soffrire più in questo modo, Ario. Ma questo è chiaro che è un po' la speranza di tutti noi, che in questi anni abbiamo sofferto molto. Purtroppo diciamo che le premesse, scusate, non voglio essere, sono abbastanza difficili, perché sappiamo tutti cosa ci è capitato qualche mese fa, e che quindi il mondo economico ha subito, al di là di quello che è successo a tante persone che non ci sono più, ma comunque il mondo economico è in difficoltà, e pensare di rinforzarsi in questo momento è abbastanza difficile. Però ci crediamo, sappiamo quanto significa la pallacanestro per Pesaro, la pallacanestro soprattutto dei vertici. Noi, il nostro sogno è quello sicuramente di riportare prima o poi questa società nella classifica che dovrebbe meritare. Ario, riuscire ad evitare l'autoretrocessione in A2, che ricordo è una delle possibilità lasciate proprio per uscire dalla crisi, dalla federazione, dalla Lega, e quindi è stata un'opzione concreta, perché stiamo attraversando, abbiamo attraversato un tunnel di cui a malapena si vede l'uscita. Mi sembra si possa dire sia stato un po' un atto d'amore, no? Di chi dentro Pesaro ci mette i soldi, di chi crede in questo legame tra Pesaro, la sua piazza, la squadra. Ma assolutamente sì, io credo che... Allora, abbiamo qualche problema di collegamento, adesso recuperiamo la linea con Ario Costa. E del resto l'abbiamo sentito Carlo all'inizio, una settimana fa 80% retrocessione in Serie A2, 20% permanenza in Serie A, e poi invece ieri abbiamo avuto la conferma, la notizia, la bella notizia che la Serie A continuerà ad avere una piazza storica come Pesaro. Abbiamo recuperato Ario Costa? Sì, eccoci qua. Allora, dicevamo un atto d'amore, no? Sì, dicevo che sicuramente prima di tutto vanno ringraziati i più di 20 consorziati, quindi imprenditori che hanno creduto e credono in questa realtà, ma comunque è stato veramente un gesto d'amore col cuore più che altro, perché la ragione credo ci dicesse di non affrontare questo salto nel buio, tenendo conto che non si sa il pubblico come sarà predisposto, eccetera eccetera. Quindi è stato veramente un salto nel buio, ma fatto con grande grande amore. Vi aspettate di rivedere in fretta il pubblico al palazzo? Magari non tutto? Beh, per noi che siamo abituati a stare nei palazzetti pieni di persone, che senti il calore, che senti come dire, il fiato sul collo, credo che giocare senza questo sarebbe veramente una cosa bruttissima. Però io credo che bisogna che tutti quanti, non spetta a noi decidere, ma ci debbano mettere e dobbiamo essere in totale sicurezza, e questa è la cosa più importante, perché ripeto, non possiamo dimenticare quello che abbiamo appena passato o che ancora ci sono degli strascichi, quindi bisogna assolutamente che chiunque decida nella massima sicurezza, sì. A prescindere poi che ognuno di noi è ovvio che vorrebbe le porte aperte, chiaramente. Chiaro. Un momento particolarmente importante per conservare le piazze storiche, Ario, perché in questo campionato ci stava raccontando, senza tornare ai tempi tuoi di Darren Day, Darwin Cook eccetera eccetera, ci stava raccontando di nuovi grandi protagonisti, anche di un cresciuto interesse nei confronti del basket. Vedevamo all'orizzonte la possibilità di un duello altrettanto storico tra Virtus e Olimpia, insomma nomi che tornano dal passato e anche grandi stelle e grandi protagonisti. Tu pensi che tutto quanto è successo possa arrestare questo processo di nuova primavera del basket italiano? Ma, sicuramente un contraccolpo lo dà, questo è inevitabile, però io credo che la pallacanestro in Italia, come lo sport in generale, riprenderà forse anche più convinti di prima. Come sarà, perché noi ce lo siamo detti tante volte in questo periodo, che siamo sempre bravi di rialzarci e di ricamminare nel modo giusto. È ovvio che deve partire il mondo economico prima di tutto, perché noi siamo come dire, in questo mondo che le nostre come si dice, risorse le troviamo esclusivamente nel mondo economico e nel pubblico. Quindi questi due aspetti non devono assolutamente cascare. È la base su cui ripartire. Grazie, Ario. grazie. Ciao Ario. Grazie Dario Costa, ciao. Complimenti e in bocca al lupo per il lavoro che ricomincia adesso per prepararsi e presentarsi in maniera dignitosa alla prossima stagione. Carlo, abbiamo un minuto per parlare del tuo amico Pozzecco. Ma incredibile, cioè Pozzecco si stava un po' come Gattuso, si stava consacrando in questa stagione. L'anno scorso aveva fatto i bambini coi baffi, era stato l'allenatore dell'anno chiaramente. Quest'anno ancora meglio, perché riconfermarsi era estremamente difficile. Sardara è un personaggio molto positivo per il basket, ma anche molto difficile, che i cui amori finiscono presto. Questa però sinceramente non ce la si poteva aspettare, perché non ha senso per tutte le cose che ho detto. Cioè, due stagioni in fila, sebbene non complete entrambe, meravigliose, non ha proprio senso interrompere questo rapporto. Grazie Carlo, a prossimo. Ciao Giovanni, buon lavoro per questa settimana. Sì, perché domani e per questa settimana poi ci sono io, al timone di tutti i convocati, che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14, poi domenica torneremo ancora e non ci fermiamo più, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Peter Bescapè e Valeria Bernardi in regia. L'appuntamento è domani dopo il GR delle 14. Ciao! E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!